per fare la domanda, ah, capito, per avere la questione per Simona, e quindi domani devo dargli 20 euro, siccome lei c'è la 104, bisogna pagare. Invece per me che ce l'ho 67% del bar, non devo pagare niente, capito? Quindi lei ha fatto la documentazione, ha scritto tutto, eccetera, eccetera, adesso aspetto solo la risposta e almeno è più tranquilla anche lei. Sì, piano piano, un po' di pazienza, dai, piano piano. Interessante che sia, che sta bene, dai. La sigaretta l'ha lasciata, sì. Già l'ha lasciata, quella già l'ha mollata. Solo che a volte c'ha i giorni che c'ha dovrebbe reggersi in piedi, capito? E ci sono giorni invece che cammina tranquilla. Poi c'è questo mal di testa strano ogni tanto, e quindi devo stare appresso a lei ogni tanto, se vado a lavorare devo stare sempre col pensiero, non sai che magari quando rientro a casa me l'ha provocato dentro al bagno, incassata in qualche posto, capito? Il discorso è quello lì. Ormai già andando più male, mi telefona ogni ora. Lo so, purtroppo è un casino. Vediamo se Marco è rientrato. Marco non è rientrato, avanti Antonio. Anda bene. Come mi ascolti bene? Girare, perfetto, anche il segnale, sì. Il segnale è sempre 9-10, la radio è Super 5, Antonio. Salerta, sto usando ed è perfetto. Adesso quel fruscio dell'alimentatore non si sente più perché avevo eliminato quella specie di ventola, e io messo una ventola grande di quelle di coso, è perfetta, silenziosa, manco la sento io, figurati. Sì, ottimo segnale, ottima radio. La radio è la solita, la tua, bella forte, ma va benissimo, ottima. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, avanti. Nessuno, avanti Antonio. Io sono grande. C'è un tipo che sta vendendo Mondezza, visto lei su Facebook. 100 euro vuole, ne ha poco di roba, bivucci un tutto smontati, apparati smontati. Cazzo, 100 euro per quella Mondezza vuole. Ma che fai, cavolo? Che? Non ti regalano più niente, Tu vai a chiedere, non ti regalano niente. Non vedo da dove va. Ma gente di qua, gente di Sassari. No, di fuori, non di Sassari. Magari il passato di Sassari te l'avrebbe anche regalata, roba, tanto perché ti conosce. Però gente di fuori preferisce tutto un blocco, capito? 100 euro ti porti via tutta quella roba. Magari ci mancano tutti i pezzi dentro, ti hanno le carrozzerie per spiegare e buttarci dentro la cassa della Mondezza. Come al solito, è continentale, non lo sai. Se lo sai, devi prendere proprio alla... O ti fidi. Lui è un casotto. Bene, mera. Lui è. Ti vuoi voglio una cosa, insomma, amico. Peggio per me, dai. Io ci ho messo i cusi, quella scatola lì, come se facevo la pulizia dietro al divano. Tutti i componenti funzionanti, ma nuovi di negozio, non Mondezza, roba di negozio, sigillata, eccetera, eccetera, per lavatrici, capito? E non mi ha scritto nessuno. Sto lavorando, stavo vendendo, ti interessava fammi sapere qualcosa, invece nulla. Evidentemente la vogliamo gratis, adesso ho chiesto a un amico, chiedi se conosci qualcuno che magari è interessato perché fa lavoro in nero, cioè posso andare in negozio a comprare la roba, con 30 euro si piglia tutto, hai capito? E ci guadagna pure un solo lato, guarda. perché le resistenze della lavatrice costano 57 euro una, costano, e ne ho due, quindi tanto che glielo sto regalando, in più ci sono i tubi, gomme, tutto quello che è guarnizioni, fascette eccetera eccetera, del cestello. Adesso ho chiesto a Nicco, se lo metto un regalo capace che vengano a casa immediatamente, se lo ritirano. È l'unica, voglia. Ascolta, beh, Giovanna la sta aspettando a entrare. Giovanna c'ha tutto, c'ha l'antenna, me la sono fatta da coso, c'ha la pezza con il telefono, c'ha il Colle 4000, sopra e sotto 7009, l'alimentatore gliel'ho dato io, il microfono a tavolo ce l'ha, gli ho dato tutto più di 25 metri di 58 con la magnetica, quindi se vuole accendere già accende, già ci trova qua, già non c'è problema. E ok, bene, ne approfitto che c'è mio nipote che mi sta chiamando, va. Ciao Antonio, ben sentito, saluto anche Antonio che sta lavorando, ciao anche a Marco che sta prendendo il caffè, saluto tutti gli ascoltoni e io me ne passo in QRT. Ascolta Antonio, prima di chiudere dammi un controllo di segnale e basta, e ci sentiamo domani se concilia, dai. 9.10, sì, e alle 5 è a bomba, perfetto, preciso, preciso, preciso. 9.10, una bomboletta proprio, a spray ce l'ha quella, 31, 8, 9, 10, 11, oggi non c'è la propagazione francese, sta, non si toglie con terra. Però sul 9 ci sono gli abusivi, ci sono i ragazzini, quindi si sono adeguati adesso. Già va bene, che merda. A parte quelli che ci sono su canale 3 in cosa, i DPT che sono abusivi, no? Di lusso sono, l'azienda, Sì, dai, lascia giocare, già fa bene, dai. Ok, di nuovo Antonello, ci sentiamo, dai. Ciao a tutti nuovamente, QRT per me, dai. Ciao, ciao. E ya, ciao, ciao. E beh! Cazzo mio, il naso ti hai fatto nuovo, cosa diavolo ti è successo quel naso? Ciao Pompo, ho parato il solo. Ce l'ho con la polipulsi. Io sono sciatto, capo, tutti si è operato. Eh? Ho detto, io il naso me lo sono sciatto e tutti si è operato, ho detto. Io ma ci sono andato a operarmi. Mi è uscito il sangue, è durato una 4 ore di 20 minuti, non di più, poi gli è passato. Sì, Pompo, ma io c'avevo la polipulsi, no? Vabbè, a parte che era da operare, per il setto nasale, e più la polipulsi, era da levare, non riuscivo più. Scusa Antonio, ciao Luca, buonasera, ben entrato, ascolta. Dove ti ha operato? Alle cliniche della Stecca Bianca o fuori policlinico? Stecca Bianca, ciao Marino. Ah, Stecca Bianca, ok, dai. Io sono stato operato, sarà 8 anni fa, a Tempio, turbine, setto, abbiamo fatto il setto, poi il polosi era pieno, mi è durato un anno e mezzo e sono peggio di prima, guarda, peggio di prima, peggio, appunto, la notte ho avuto un macchinario perché fa una pinnea e faccio respirare bene, se no, guai. Va bene, speriamo bene, dai. Ok, in bocca al lupo Luca, ci sentiamo, stavo chiudendo. Ok Antonio, riprendi, ciao ciao. Ciao Mari, ci sentiamo. Quello che io, a me mi è successo in pratica che sono entrato in camera qua, dopo cena, mi sono bevuto una birra e mi sono mangiato una pizza. In pratica mi è salita la bici mia maletta, tutto a un tratto, mi si è dato la sedia, mi sono acciappato a testa in giù. In macchina, mi sono sbattuto la, il naso e in terra, capito? Ho chiamato a Simone, ha detto vieni, ha detto veloce, io ho detto che ho avuto questo coso qua e sono caduto. Era male, no, sono stato occupato 5 giorni e faceva male in bel naso, la verità. C'avevo due tagli, c'avevo nelle... Però all'ospedale non sono neanche andato, perché se andavo in ospedale ti trattengono lì, hanno pezzi le balle, tutta la notte, come è successo l'altra volta, che io sono rimasto come un coglione lì, con la busta, con la busta della spesa, e non c'era manco un cane. A un certo punto ho chiamato Giovanna, ha detto vieni a prendermi, che sono qua pronto soccorso, ha detto che... E poi sono svenuto, davanti a casa, e mi sono trovato lì, ho detto, a pronto soccorso, ho detto non so come. Con la busta, la spesa, siamo i baracchi da portate, i portafogli pieni di soldi. Ma domani non mi ha toccato niente, al triage non c'era manco un cane. Ma sono stato costretto, io non respiravo più. Poi dicono che questi polipi ricrescono, cosa vuoi dire? Uno che ce l'ha in camera con me tre volte l'hanno operato. Non lo so. Vabbè. La fortuna, la vita, c'è quello che non rivede un cazzo, un nulla di nulla, c'è quello che si ammala sempre. Così. Non possiamo fare niente. Troppo. È così. Ma non c'è nessuno? C'è Marco, Marino, vabbè, ma adesso Marino l'ho chiuso, quindi Marco è sparito e basta, tutto lì. Mi è venuta questa glicemia tutto un tratto, mai avuto niente, vitamina, dopo che ho finito di lavorare l'estate scorsa lì al resort, come sono entrato a casa e ho dovuto rimanere in casa per stare con Simone, cosa del genere, per non lavorare lì, eccetera, eccetera. Forse perché non mi muovevo più, ero sempre dal letto, eccetera. Cucinavo, poi mi mettevo seduto nel letto, mi sdraiavo e cose del genere, poi mi è venuta questa influenza, ho cominciato a caricarmi di pastiglie e quando sono andato dal medico avevo tutti i valori incasinati, tutti, mi mancava il ferro, la vitamina D, la glicemia era alta, e questa si è spaventata, dice ma non è che c'hai il diabete, ha detto nessuno mai avuto dietro il diabete, dice quante birre bevo, io ho detto guarda, io ho detto una pausa, una cena, non è che sto bevendo, ho detto 50, 60 mi facevo una vuota, gli ho detto con l'abito di vizzetto, non è mai successo nulla. Mangiavo la pizza o mangiavo la bagrassa, track, tutto un tratto svenivo, poi meno male adesso mi è passato. C'era Marco, la Tarino, tutti chiusi hanno, tutti quanti hanno chiuso. E via. Come si chiama? Mi ha detto che era sincope, mi ha detto, sì, la dottoressa. Infatti adesso l'ultimo esame lo dovevo fare a novembre del 2024. E portarlo lì alla, come si chiama, all'INAM. Tutti gli altri esami li ho quasi tutti fatti. Ma male, l'ultimo esame del sangue, l'ultimo era a posto. Mi ha detto, congratulazioni, Ciantonello, sei a posto, non c'è più niente. Mi sembrava strana la cosa, ho detto a me. Vado a fa un culo. Aspetta, torna indietro. Vabbè, già guariremo prima o poi. Adesso devo fare. Non fa ancora, vabbè. No, non ti tocco nulla io, non so stati a usare TikTok, non si può prendere in culo, non ho soldi da spendere, adesso quelle coglionate di TikTok, per carità, cazzo. Quindi per avere follower e cose del genere, cazzo, ci sono poche ragazze che si toccano la maglietta, se la abbassano, si toccano le mutande, si abbassano le mutande, poi se le cambiano, poi si cambiano la gonna. Ah, ve la vai, cazzo. Allora, c'è tre cose. Ho fatto anche la segnalazione su Facebook. Non gliene fate nulla, no, hai capito? Ci sono tutte ragazze delle dove c'è la fame, hai capito? Quindi insomma, per avere un po' di soldi fanno così e la gente ne guarda, perché spera che si veda il culo e quello è il resto in avanti. Ah, beh, certo. Aspetta un attimino, che va di più, mi porto il coso qua. Come si chiama? Cazzo, lo posso bere, sto prendendo l'antibiotico. Il cazzo di giamba, un sacco di frutta. mi ha regalato a me Antonello una bottiglia di coso, sono ancora a assaggiarla, figurati, di fatto da lui, dice questa è per te Antonello, mi ha detto, mi ha fatto il mirto luna, quindi figurati, ha fatto anche lui fa anche limoncello addirittura, ma fa che buono, sono ancora a toccarlo il mirto, quindi quando ne hai voglia di battimento, quello lì ci trovo una bottiglia intera, ne ho, di quella fatta da lui, proprio casalingo, non di quello comprato. Stanchissima. Vabbè, dato che ci ho fatto una settimana di ospedale, io, tanto una ciamba, cazzo di Madrid, un bel di Madrid. E piano piano ben riprendo, se Dio vuole. Beh, la strada per forza dimagrisci, a parte di mangiare una cagata, ma comunque. Ma infatti. Poi adesso, vabbè, l'unica cosa del tutto è adesso che quando sei in ospedale, con la questione del Covid, lì è tutto serrato, quindi lì ho tipo tutto in PMR per parlare, è l'unica cosa, perché l'altro non puoi usare. L'unico è il PMR che arriva in tutti i posti da lì, ma se ti metti vicino alla finestra, e allora? Almeno ti fa compagnia, puoi ascoltare tutti, a parte quelli che sono al piano terra, ascolti quelli del pronto soccorso, poi quelli del reparto Covid e poi tutto il resto che c'è lì, gli avevi visto lì dalla parte di San Pietro e tutto quanto, per i pedalieri, da qui ci sono tutte quante le aziende col PMR, e voglia che dovete fare il report. Infatti, mi chiede stanchissima, ma c'è Inter Juventus, speriamo di buca, ragazzi, speriamo. La Juventus, come la chiami tu? Ah? Ho detto, come la chiami tu, la Juventus? Allora. Adesso il Napoli, si prende il coso, lo scudetto quest'anno, e fa un bel insulto di Napoli, hai visto, cazzo, vai lì a dormire in albergo, 1.000 euro a notte, cazzo, ma ve la vai, a parte il portafoglio che te ne frega, ma comunque, ah, che sussia, a parte il portafoglio, vabbè, ma mi dice di tutto, lo sai, secondo me se vai nei quartieri spagnoli lì, se sbagliano ti ammazzano pure, non sono dato, già lo sai che lì ci sono quelli che spacciano, di tutto di più passa lì, sparano di notte, molto, in aria o che trovano, quindi, poi bella zona quella, cosa vedo? Sì, no, appena. La Juventus è stata fortunata quest'anno, gli hanno regalato i nuovi 15 punti, se no è stata già in Serie B a quest'ora, ma sono tutti quanti comprati, sono, capito, ormai il calcio non è più quello di prima, pensano solo al di là e boh, tutto un giro d'affari lì, hai capito, e politica anche. certo. E c'era stata la magistratura, stata quella più di uno, avrebbero vincolato lì di cosa di delle squadre, capito? Avrebbero mandato loro in Serie B, no? E avrebbero sequestrato tutta questa. C'era poca di cose illeciti, poi giro di soldi strano, tutte le società sono tutte portate fuori, cioè sono tutte quante fuori, le paesi fiscali non pagano nulla. Tutto magna magna. Bravo, tutto magna magna, sì. Adesso bisogna fare come ha fatto quella Madonna lì, cioè quella lì di coso, che si è inventato la Madonna che piange e si è fatto 125.000 euro a quello, 30.000 da quell'altro, poi adesso c'è quell'altro, non un prete, un francescano, anche quello è stato furbo, si è fatto mandare i soldi su internet, si è comprato il terreno, la casa, così bisogna fare. Ti compri l'assalto, la metti fuori, li metti a pelare il sugo, anziché ci appesi apposta. Infatti. Un casino, Mangiato e popù. Ho capito. Ho detto, sei mangiato? Sì, ho mangiato poco fa. Voglia. Ho mangiato. Adesso sono andato a baracchino. Io domani mi faccio una bella colazione di Alba, che prima non potevo neanche fare colazione al bar, una volta mangiavo zuccheri, uscivo mi faceva male, mi faceva. Chi è che vuole entrare la propagazione possa, con qualcuno dalla... No, sì, dico, se tu basso, tu 356, e poi è sparito. E chi, con chi stai parlando? Sì, tu stava parlando, non so, forse magari ha scelto, cioè la zona di Uzziri, roba così, cioè se qualche altra volta sotto, capito? E basta. Ah, ho capito. Io ci ho scritto qua per me, non ti credere, dopo il segnale 7. Non è molto la verità, perché se avessimo stato con le 4.000 avremmo avuto intorno ai 3-4, ma sarebbe stato la stessa identica cosa. Il prego di più sensibile come ricezione. E te credo. Già, lo credo, già lo... Ciu. Radio.